Got a slick chick, she a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick, yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sight. Yeah, yeah, yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah. She's my clickety click, I'll switch it. Yeah, yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, oh man. She is mine, I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah a chick. Yeah, yeah, ah, yeah, yeah, yeah. Chick, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, click yeah a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovati e ben ritrovate, Slick Chick su Radio Wombat. Puntata del mercoledì 4, giusto? Non mi sto sbagliando, no, era il 4, mercoledì 4 luglio, prima puntata di luglio, di questo luglio 2018. E puntata che, siccome qui non so dalle vostre parti come state messi, ma qui nella Wombat Caverna, nonostante si tratti di una caverna, quindi pareti abbastanza grosse, insomma ben isolate e tutto quanto, ma qui si sta in costume da bagno, fa caldissimo, e quindi per raffreddarci un pochino, raffreddare un po' gli animi, la puntata di oggi la dedico ai gelati. Perché, non lo so, non so voi se siete persone strane, io, boh, c'è gente strana al mondo, però secondo me i gelati sono una delle poche cose veramente belle della vita, e quindi insomma che ci fanno passare momenti bellissimi d'estate, d'inverno, d'autunno, in tutte le stagioni, ad ogni latitudine. Purtroppo in grandi parti del mondo non ce li hanno, non sanno neanche cosa sono, o in altre parti fanno finta di averceli, ma è meglio che proprio, cioè, abdicassero e dicessero a se stessi e al mondo: vabbè, non siamo in grado, e lasciassero i gelati a chi le sa fare e a chi li sa mangiare. E quindi puntata di oggi, appunto, molto godereccia, dedicata ai gelati. Iniziamo subito in pompa magna da Tom Waits. Tom Waits ha scritto, composto un pezzo, Ice Cream Man, che è contenuto nel suo primo album, il primo album in studio, meglio, Closing Time, del 1973. Ice Cream Man è stata oggetto di cover, tra gli altri, anche da parte di Screaming Jay Hawkins, in una bellissima versione del 1991, che forse vi ho anche fatto sentire, mi viene questo dubbio. Comunque, in ogni caso, se non ve l'ho fatta sentire, andatevela a sentire voi, perché è veramente bella. Ice Cream Man, lo dice il titolo, l'uomo del gelato, l'omino dei gelati, questa cosa dell'omino dei gelati che col suo camioncino girava per i quartieri, ti portava la felicità a casa, evidentemente ha sempre ispirato pensieri ilari e birichini negli americani. Sono strani gli americani, d'altra parte, quindi boh, che si deve fare? Noi ci sta l'arrotino, strano che non ci siano altrettante canzoni italiane sull'arrotino, l'omino a casa che ti porta al gelato sarebbe una cosa bellissima, ma non c'è quasi mai. E vabbè, l'arrotino, faremo una canzone sull'arrotino. Intanto sentitevi questa invece ben migliore sul gelato. quanto spaccava questo pezzo. Allora, siccome si parla di gelati, si parla di cibo, evidentemente, grazie a questa scaletta, ora parlo anche in milanese, grazie a questa scaletta ho riscoperto questo gruppo che avevo dimenticato completamente. Magari, non lo so, fa lo stesso effetto entusiasmante anche a voi, oppure non ve ne può fregare di meno, vi fa anche un po' schifo, oppure invece era un gruppo che conoscevate benissimo e grazie tante ho scoperto l'acqua calda. Comunque sto parlando di Cibo Matto. Cibo Matto è stato un gruppo musicale formato negli Stati Uniti, a New York, in particolare nel 94, da due musiciste giapponesi, in realtà, la polistrumentista Yuka Honda e la cantante Miho Hattori. E mischiano veramente tanti generi, lo sentirete se non ve le ricordate, e ne viene fuori una sorta di trip hop spesso veramente sorprendente. Trip hop in realtà per andare per sommi capi, perché in realtà c'è un po' veramente di tutto. Come se ne vince dal titolo appunto del gruppo Cibo Matto, le due giapponesi hanno una qualche fissazione con il cibo e l'Italia. Tra l'altro non si può non ricordare un brano con un titolo eloquente come Know Your Chicken, che secondo me già solo per questo vale veramente la pena di riascoltare questo gruppo. Noi però ci ascoltiamo non Know Your Chicken, perché la puntata sul cibo l'ho già fatta e quella sugli animaletti pure. A sto giro ci ascoltiamo un pezzo proprio sul gelato, perché i Cibo Matto non potevano, anzi le Cibo Matto non potevano non raccontare anche questo, dall'album Viva L.A. Woman del 96, White Pepper Ice Cream. Bye. Oltre a quelli che abbiamo detto ora, anche i Jefferson Airplane hanno evocato il gelato. Ebbene sì, anche se un gelato un po', sicuramente più minaccioso. L'album in questione è Crown of Creation del 68 e la copertina dell'album, non so se ve la ricordate, perché dovreste d'altronde, comunque rende piuttosto esplicito il significato del brano di cui andiamo a parlare, ovvero il brano Ice Cream Phoenix. E c'è un'esplosione rossa in questa copertina con un enorme fungo atomico che in effetti in qualche modo potrebbe anche sembrare un cono gelato, però ecco, un cono gelato ovviamente per niente benigno questa volta, e è abbastanza, ora sembra strano, però effettivamente molto probabilmente parlavano esattamente di questo, perché i Jefferson Airplane in questo brano raccontano in quel loro modo psichedelico l'angoscioso immaginarsi sopravvivere alla fine del mondo. Erano anni di un certo tipo, non che questi siano poi in fondo molto migliori, e quindi si poteva capire appunto a cosa si riferivano e cosa avevano in testa. Wombat, sempre Radio Wombat, nonostante il clima ostile, bene, anche troppo, a me piace in realtà, vedete voi. E comunque vi ricordo i social Wombat, il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando ostinatamente in streaming. Ma pazientate, perché qui si sta lavorando veramente alacremente per il ripristino delle trasmissioni anche in onde medie, quindi anzi approfittate di questo periodo di pausa per procurarvi una radiolina in onde medie, in AM, quindi, che vada in AM, perché vi servirà ben presto, sappiatelo. E poi la casella di posta, postawombat@insiberia.net, che è sempre quella, nonostante la Siberia evochi l'inverno, ma è sempre quella, e con la quale potete comunicare con noi e dirci tutto quello che ci volete dire. Dai, Jefferson Airplane, passiamo a tutt'altro genere, tutt'altra epoca, arriviamo nel 1995, Only Built for Cuban Links, un album di Rec Von, rapper dei Wu-Tang Clan. In realtà appunto questo è un album solo, dove lui, teoricamente solo, nel senso è un album da solista, poi di fatto però è prodotto da altri, insomma ci mettono le mani un po' tutti, tant'è che in realtà questo pezzo, se ve lo andate a cercare, Ice Cream, il nome del pezzo, lo trovate ovunque come Wu-Tang Clan, perché insomma sempre loro sono. Il testo parla dei vari gusti del gelato come metafora per differenti tipi di donna. Idea originale anche di un certo gusto, devo dire, proprio un'ideona. Lo stesso Rec Von ha commentato: volevamo che le donne sapessero che le rispettiamo come regine, e di regine, come di gelati, ce ne sono di tutti i tipi. Quanta saggezza. Un po' servi della gleba a testa alta, ecco, ma potevano sicuramente dire di peggio. Cioè io ho un po' tremato quando sono andata a cercare di cosa parlava questo testo. Alla fine poi dai, poteva andare sicuramente peggio. Ice Cream, Wu-Tang Clan e in particolare Rec Von. Ice cream. che si deve fare? Sono un po' così, sono un po' rozzi, sono un po' dei poveretti, ma gli si va bene lo stesso, dai, alla fine sono degli orsacchiottoni, sono un po' disagiati, disadattati. Ora arriviamo invece a un pezzone, ora concentrazione, perché questo brano vale la pena di essere ascoltato con un certo grado di testa, ecco, più che altro insomma dovete dimenarvi. E allora sto parlando di Palline di Gelato, che qualcuno di voi già sicuramente conoscerà, perché è un brano tratto da Hard Boiled del 2010 di Mister Occhio. L'album è una nota produzione uscita per Escape from Today, Sonatin Produzioni, Jacob Records, Barney and Sound e Pesce Siluro. È un disco bellissimo che se non avete già rischiato di non trovare facilmente, penso che sia stra esaurito, io ce l'ho, e quindi fatti vostri che non l'avete preso al momento giusto. Mister Occhio, insomma, Pinerolo, Torino, voce dei fichissimi e via via. Piano piano si avvicina al Delta Blues, suonando una resofonica, e mette su un accrocchio di strumenti che formano la sua bellissima One Man Band. E boh, è tantissimo che non compare dalle nostre parti Mister Occhio, mi manca un bel po' e penso che mancherà anche a voi se non lo conoscevate dopo che ve lo ascoltate. Che non era italiano, vero? Coniugato i verbi malissimo, ma vabbè, tanto avete capito. Qua. Questo era Mister Occhio, Palline di Gelato, purtroppo il pezzo è breve, è finito subito, e ora passiamo a un altro brano di Don Van Vliet, in arte Captain Beefheart, nato negli Stati Uniti nel 1941 e morto nel 2010. Perché ve lo citiamo? Perché ha scritto questo pezzo che si chiama Ice Cream for Crow. L'album è omonimo, è Scream for Crow del 1982. Il suo stile, lo stile di Captain Beefheart, è stato definito freak dadaista e dissonante, che stravolge le armonie classiche del blues avvicinandosi alla musica libera e d'avanguardia. Questo è un po' quello che hanno detto. Effettivamente sono le cose che scriveva erano un po' una mischione di tempi dispari, cose fastidiose, disturbanti, testi surreali, e lo sentirete, insomma. E Captain Beefheart era anche conosciuto per il suo rapporto dittatoriale con gli altri musicisti, e per l'enigmatica relazione con la quale si rapportava al suo pubblico. In realtà di enigmatico c'era ben poco, era un po' matto dalle gare, e questo più o meno, no dai, non si dice matto dalle gare, è veramente politically correct, è un po' pazzerello, ecco. E quindi si potrebbe anche sintetizzare tutto così. Era amico d'infanzia di Frank Zappa, ecco, e questo insomma dovrebbe bastare a inquadrare il personaggio. Captain Beefheart è ritratto, ne parlano in una biografia che lo racconta, è ritratto come un giovane teppista da giovane che passava gran parte del suo tempo nella sua camera insieme a Frank Zappa ascoltando dischi e, come disse lo stesso Zappa, urlando a sua madre su, perché si chiamava su evidentemente sua madre, get me a Pepsi, portami una Pepsi. E vabbè, e così era. E, i due, cioè Captain Beefheart Frank Zappa, cominciarono a collaborare su parodie di canzoni pop e a scrivere la sceneggiatura per un film che poi non realizzarono assolutamente mai, intitolato appunto Captain Beefheart vs. The Grand People, e che fu quella la prima occasione in cui apparve questo nome, che poi divenne il nome d'arte di Van Fleet. In un'intervista del 1970 a Rolling Stones, perché poi appunto detta così sembra che era semplicemente un pazzo riportato dalla piana, ma in realtà cioè poi lui comunque ha fatto il suo, insomma, è diventato abbastanza conosciuto e famoso, ecco. Ecco, in un'intervista del 70 a Rolling Stones disse che non voleva che qualcuno gli chiedesse perché lui e Zappa avessero inventato questo nome. Non me lo chiedete. Ma in realtà poi, andando a scavare varie fonti, tra cui anche Frank Zappa, nella sua stessa autobiografia, dissero che questo nome, appunto Captain Beefheart, che vuol dire letteralmente Capitan Cuor di Bue, trasse le sue origini dal nomignolo con cui uno zio esibizionista di Van Fleet, tale zio Alan, pare amasse presentare lasciando la porta del bagno aperta mentre urinava i suoi organi genitali a una delle prime fidanzatine del povero Captain Beefheart, e dicendo appunto che bellezza, sembra proprio un gran bel cuore di bue, ecco. E questo, direi che con questo ho fatto un quadretto con cui potete a questo punto a cuor leggero ascoltare questo brano, che è comunque veramente veramente disturbante e dissonante. Se a un certo punto volete abbassare il volume vi capisco, però ritornate, perché poi insomma comunque la scaletta continua e ce n'è di belle. It's so hot. Looks like you have 3 weeks' clothes. The moon's so full. Wow! Hand on a pumpkin. You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Like the fire piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'd be ice cream. Ice cream for crow. Ice cream by night. Sun cream by day. We'll be right back. tears in a haystack. Scarecrow, get back. Tonight there'd be a fellow treatment beneath the symbol. We'll all assemble. Whoa, how we fly. Oh, how we tremble. Cut the cake. We'll all get well. Turn up the speakers. A keeper, ice cream a show. Oh, ice cream a plum. Now, now, now. That's it. Now you can go. Vabbè, ve avevo messo in guardia, non è che mi potete dire niente, era così, vi avevo detto che era un po' disturbante e fastidioso, ma ci riprendiamo veramente enormemente con il prossimo pezzo, che è di Alberto Camerini, Gelato Metropolitano, secondo disco di Camerini del 1977, e quando per d'altra parte se no, prodotto da Aria Stavolazzi, ex bassista degli Aria. A Camerini qui gli girano i coglioni, ve lo dico subito, se non lo sapevate, sapevatevelo, e si concede due o tre sfizi, ma non solo nel brano, in generale, in tutto il disco, devo dire. Il disco si apre con Sono nato nel sole di un paese grande, che libero forse non lo è stato mai, un paese grande di gente felice, di grandi foreste e grandi città, e si chiude con questo Gelato Metropolitano che, boh, non ha veramente bisogno che dica altro. Signore e signori, un momento di attenzione, amici, compagni, spettatori, un'altra canzone. Questo è proprio micidiale, un po' fuori dal normale. Dopo il pane quotidiano, un gelato metropolitano, digeribile da tutti, da grandi e da bambini. Diciamo gusto tutti frutti, firmato Alberto Camerini. Nutriente digestivo, tonico e corroborante. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gel al tutti frutti, stracciatella col biscotto, panna in coppa con zucchotto, fior di latte clandestino, un bel cono col pistacchio, giù vanilla e torroncino, babà ed è flagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pesca albicocca, ananas e dolce in bocca, zuppa amaro, grocchiacciato, colorato il mio gelato. L'amore sì, vabbè, l'amore può essere eccezionale, un bel film del terrore, poi può essere brutale. Storie dell'autonomia e l'avresti censurate, canzoni con pornografia e l'avrebbero bocciate. Non parliamo poi di sesso, anche se per me è lo stesso. Ora però non arrabbiare, si può ancora ricominciare. Era un puro esperimento, un gioco, un divertimento. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gel al tutti frutti, stracciatella col biscotto, panna in cotta, cannellotto, fior di latte in clandestino, un bel cono con pistacchio, giù vanilla, torroncino, babà de flagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pera, albicocca, ananate, dolce bocca, tupo amaro, l'ho ghiacciato, colorato il mio gelato. E adesso che ho terminato, spero di avervi divertito e che non ve la siate presa male. e che abbiate anche capito, sono le mie contraddizioni che diventano canzoni, a parte che ora la menata è stata un poco esagerata, non ho problemi di arrivismo e di sadomasochismo, la realtà è invece che tu non hai più umorismo, d'accordo, niente pessimismo, però nemmeno trionfalismo. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gela, tutti i frutti, stracciatella col biscotto, panna in coppa, candelotto, fior di latte clandestino, un bel cono con pistacchio, due vanille, toroncino, babate, fragante, con nocciola, latitante, verde menta, la granita, al caffè non è finita, mera, albicocca, ananate, dolce bocca, stupo amaro, d'ho ghiacciato, colorato e mio gelato. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No, no, aspetta. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. e non sono riuscita a resistere e vi ho dovuto infilare anche la clip di tratta da Down by Law di Jim Jarmusch, dove tra l'altro c'era anche, si sentiva soprattutto verso la fine, la roca voce di Tom Waits, già tanto giusto per tornare all'inizio di questa scaletta. E invece il brano che ci siamo ascoltati adesso era Ice Cream, per l'appunto, di Chris Barber, composta nel 51 da George Lewis. Chris Barber era un trombettista inglese di blues classico e Dixieland, come avrete potuto apprezzare. E adesso siamo arrivati al pezzo, quello che tutti voi stavate aspettando, perché io lo so che quando ho detto va bene, allora oggi la scaletta è dedicata ai gelati, tutti voi, tutti e tutte, avrete pensato a un unico grande brano, un unico grande pezzo. E perché in effetti qui siamo alla fine degli anni 70, e alla fine degli anni 70, per varie ragioni che non si sa bene come mai, però la musica italiana, in particolare quella cosiddetta leggera, sembrava avere un debole per i gelati. A un certo punto nel giro di poche settimane, oltre a, fra l'altro, a quello che ci siamo sentiti poco fa, insomma, di Camerini, però nel giro di poco uscirono Un gelato al limone di Paolo Conte, poi portata in giro da Dalle De Gregori, come saprete, e anche, e qui, Gelato al cioccolato di Pupo. E probabilmente in questo mood, com'è come non è, che gli Skiantos fanno uscire anche loro, dicono anche loro la loro sul gelato, e fanno uscire nell'album Chinotto, tanto per restare sulle dipendenze, qui c'è tutta roba di cui veramente, cioè, che fa scatenare i deliri e che crea enormi dipendenze. L'album Chinotto del 1979 fanno questo brano, dove affrontano l'annoso problema del caro gelati, e tantissima saggezza nelle parole di Frick Anthony e degli Skiantos con la loro Gelati. La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende, per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta, ma quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo, i gelati sono buoni ma costano milioni, i gelati sono sono buoni, ma costano Non ce ne parlare, guarda, non ce ne parlare di quanto costano i gelati al giorno d'oggi. E che lui se ne lamentava nel 79, cioè, sapesse ora, poveraccio. Allora, e anche le Bikini Kill hanno parlato di gelato, sì, sì, sappiatelo, non nel senso che pensate voi, ma in un modo che veramente in realtà non c'entra assolutamente niente. Il titolo è Bloody Ice Cream, giusto per così prendersela bene. L'album è Reject All American del 96 e dicono questo: alle ragazze che scrivono viene raccontata la storia di Sylvia Plath, vogliono che pensiamo che essere una poetessa voglia dire che devi morire. Chi l'ha detto che tutte le ragazze che scrivono alla fine si devono suicidare? Ho una buona notizia per voi: trasformeremo le parole corsive in coltelli. E questo è esattamente paro paro il testo di questa canzone di Bloody Ice Cream. Ho letto il testo perché d'altra parte loro abbaiano e non sarebbe stato possibile, secondo me, assolutamente capire niente di quello che dicevano. E arriviamo al gelato al cioccolato, ovvio, andava fatto. Giuro che non si tratta di pupo, anch'io ho una mia dignità. Ma c'è qualcun altro che ha parlato, ebbene sì, sembra incredibile, ma c'è qualcun altro che ha parlato del gelato al cioccolato ed è Eddie Palmieri. È nato a New York da genitori portoricani, cresciuto nel Bronx, percussionista ma soprattutto pianista, come ben saprete, fonda la Perfecta, che nel corso degli anni diventerà una delle più importanti band nel panorama jazz afro-caraibico. E l'album in questione è del 1970, Superimposition, appunto il brano che ci andiamo ad ascoltare è Chocolate Ice Cream. Thank you. gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, è vero limon, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di perplessità, a non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà, e un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia ai bagni diurni, che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. Ti offro la luna nel pomeriggio per il sogno arabo che ami tu, è una stretta forte della mia mano per te donna che non mi scappi più, è un gelato al limone. Gelato al limon, gelato al limon. Ti offro l'intelligenza degli elettricisti, così almeno un po' di luce avrà. La nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà, come un gelato al limone. Gelato al limone, gelato al limone. Come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Allora, come ci insegnano i Wu-Tang Clan, ognuno ha i suoi gusti, ma io personalmente gelato al limone non lo apprezzo più di tanto, ma conosco gente che mangia praticamente solo quello e ci impazzisce. E d'altra parte però questo brano era meraviglioso lo stesso, anche per me che comunque preferisco i gelati dolcioni. 1979, Paolo Conte, ovviamente, gelato al limone. D'altra parte l'avevamo anche citato prima e ve l'ho dovuto far sentire in carne ed ossa. Ultimi due brani, siamo in chiusura. E boom, agrodolce, prima vi stordisco con una botta in testa e poi dopo vi faccio ripigliare. Perché adesso, beh, siamo sempre in quegli anni, 1976, Ice Cream Man on Age, che è un brano composto da Carpenter per il film Assault on Precinct 30, Le Brigate della Morte in italiano. E siamo a Los Angeles, ghetto di Anderson, è un periodo di continui scontri a fuoco tra la polizia metropolitana e le gang di strada che imperversano in tutta la città. Sei membri della gang Tuono Verde vengono uccisi dalla polizia mentre cercano di entrare in un deposito di armi. Avendo saputo cosa è successo, i Voodoo, alleati dei Tuono Verde, giurano vendetta tramite un patto di sangue nei confronti dei poliziotti, cioè, insomma, giurano di vendicarsi della polizia. Vista l'esposizione agli assalti, il comando pensa di spostare il 13° distretto, appunto, al centro di Anderson del ghetto. Non è una buona idea, evidentemente, ma che c'entra il gelato in tutto questo, vi direte? C'entra, perché a un certo punto la piccola Katie, sta bambina buttata un po' lì, scorge il furgone del gelato e vi si reca. Il gelataio, spaventato e sbrigativo, cerca di togliere, spaventato immagino non dalla bambina ma dalla situazione che non doveva essere carina, cerca di togliersi di torno la bambina servendola immediatamente. Non appena la bambina si allontana, i membri dei Voodoo si fanno vivi e prendono a pugni il gelataio, così. Poco dopo lo uccidono con una pistola. La bambina si accorge che il gelato non è quello che lei aveva pagato e torna indietro morendo per mano del capo della banda. Che robe, eh? E questo, di tutto questo ci parla il brano di John Carpenter, appunto Ice Cream Man on Age. We'll be right back. Bene, bene, siamo in chiusura, ma abbiamo finito. Prima di lasciarvi all'ultimo brano di stasera, vi ricordo che noi ci riascolteremo mercoledì prossimo, sempre nello stesso posto dove mi state trovando adesso. Ma se vi anticipo già che, anche se manca ancora un po', ma ve la butto lì, vi anticipo, mi raccomando di tenervi liberi, libere, perché giovedì 19 luglio c'è una serata molto interessante, mi consiglio, mi sento di potervi consigliare caldamente, al CSN Ex Emerson in via di Bellagio, una serata dedicata a Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, tutta quella cricca lì, dalle cui viscere poi nacque il Frankenstein, tra le altre cose nacque tante di creature, ecco, ma ci nacque anche Frankenstein. L'occasione di questa serata è proprio parlare del cioè lo spunto, diciamo, oltre a parlare di tutto questo, anche parlare di Frankenstein, perché ricorrono quest'anno i 200 anni dalla pubblicazione appunto del Frankenstein di Mary Shelley. Quindi questo spunto viene raccolto in questa serata, dove ci saranno musiche, letture musicate, ci sarà 8 che conoscete, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat conoscono bene, la Rotella in particolare, ospiti fissi di ricorrenti perlomeno di 8 Hertz saranno presenti ad allietarvi con i loro suonini, letture musicate, quindi, e le sorelle Trapasso, Ornella d'Ezzordo, che racconterà un po' della vita e della poetica di Mary Shelley. Insomma, ci saranno tante belle cose che potete approfondire, potete andare a vedere un po' nel dettaglio sul sito del Next Emerson, www.csaexemerson.it. Niente, basta, questo è quanto, ve l'ho buttata lì così non, poi non dite che non ve l'avevo detto, e vi saluto lasciandovi ai Dynamics con Ice Cream Song. L'album è First Landing 1969, Detroit Sound, ma non Motown. Il buffo aneddoto riguardo ai Dynamics, che poi in realtà non fu un gruppo proprio famosissimo, è che in realtà la loro prima hit, Misery, non è questa ma insomma è un'altra, Misery, fu copiata paro l'anno dopo dagli Who per la loro prima uscita, Zoot Suite. Insomma, poi appunto i Dynamics non se l'è considerati più nessuno, gli Who direi parecchio di più. A presto, quindi, a mercoledì prossimo, ciao ciao. If loving you was a whole lot of money, I'd be the richest man in all the land. If a man needed honey the way that I need you, they wouldn't only make it in the summertime, they'd make it in the winter too. away.